Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, diretta a rockway.altrevista.org. C'è niente da fare, Veronica, ci vedono tutti con le telecamere. Bisogna stare attenti, Veronica, qua, Laura, ti scatta e Daniele, l'occhio. Ci vedono tutti con le telecamere, se poco il grande fratello, grande fratello. Qui non c'è il grande fratello, qui c'è Daniele, no. Daniele a casa. Abbiamo i due Mary Posh che ci stanno guardando o sentendo, non si sa. Che non sono qui, idealmente sono qua anche loro. C'è la voce della coscienza che saluta. Esattamente, idealmente sono qua anche loro. Ecco, sì. Ma parliamo di questo pezzo iniziale. Come l'avete costruito l'idea, come è partita? Questo brano è stato scritto in Toscana. Bello, come Sting, anche voi scrivete in Toscana. No, è che c'è la vicenda era diversa. Sempre in Toscana, sempre in Toscana, anche lui, sempre in Toscana. Sì. E niente, è un brano... Non mi piace molto spiegare... A chi piace? La costruzione, l'idea, dove è partita, non spiegare... Come è partita l'idea? È un arpeggio e una cuffia in testa. Quindi e delle, e delle parole che sono nate proprio in un momento preciso. Quindi l'idea parte da una chitarra praticamente. Un suono sì, di chitarra. Da una chitarra, in quel caso era questa chitarra con degli effetti e stavo un po' registrando con un registratore. L'idea è partita da quello. Sì. E poi... Però cioè, è partita ed è si è conclusa, c'era solo un ritornello diverso. Ah, ho completamente capito. Diverso. C'era solo un ritornello diverso. Però mi dice, cioè, nell'album, questa è una presentazione leggermente meno pesante, però nell'album c'è più grinta, c'è più voglia. Molta di più. Vorrei che magari... Ecco, Laura la giovane Laura, la giovane del gruppo, dai. Dimmi te qualcosa. Ma l'inserimento del violino, che importanza ha avuto l'inserimento del violino, il tuo violino nei Mary Posh? Importantissimo, no, sto scherzando. No, importante sì, perché no? Il violino è una cosa meravigliosa per un gruppo rock, un po' d'arte, infatti, in alcuni momenti, secondo me. Beh, in questa versione nell'EP si ascolta il violino acustico. Sì, certo. E che differenza c'è tra il violino acustico e il suono, il violino acustico e il violino elettrico? Ma io lo vivo in modo molto diverso, perché il violino acustico mi dà il suono del legno, il suono degli armonici, tutto quello che può dare. Invece per me il violino elettrico è un grande gioco, cioè è un gioco, posso sbizzarrirmi, posso fare tutti gli effetti che fanno i soliti chitarristi, li posso fare anch'io, però cioè con uno strumento dove non ho tasti, non ho niente, quindi posso giocare un sacco. E quindi è bello per quello, è bello, ed è bello con Mary Posh, mi piace tanto poterli usare entrambi, cioè poter usare sia la situazione acustica sia la situazione elettrica comunque, e farli suonare bene, cioè dal vivo, cioè, com'è dal vivo cioè va di più la situazione elettrica o la situazione acustica? Quello è importante saperlo. Ma è una mia curiosità della band della band, quando suonate fate acustico ed elettrico? Acustico qualche momento lo fate oppure no? Sì lo stiamo facendo magari più in inverno, chiama di più l'acustico. Esattamente, l'estate, come Sting fa un album invernale, certo, parlando di Toscana sì no, siamo noi, non c'entriamo nulla con la Toscana. Perché l'avete deciso di Toscana, solo quello. Dimmi. Sì, quindi d'inverno adesso abbiamo fatto un po' di date anche in acustico, stiamo anche sperimentando delle cose nuove, cioè ci piace, direi. Bene, anche e poi l'elettrico. Poi in acustico ovviamente c'è un'altra energia, c'è un'altra forza, però abbiamo visto che anche in acustico riusciamo a riprodurre la stessa energia in una versione diversa. Infatti è piaciuta molto l'ultima data che abbiamo fatto in acustico, sono piaciute molto. Un bel momento per Mary Posh da questo punto di vista. Che date avete fatto di recente, se vi ricordate? Dall'inizio dell'anno praticamente. Non ci siamo più fermati. Avete suonate sempre, ecco, è positivo, molto positivo, decisamente. Sì, ma secondo me è un momento speciale per noi di aprirci verso la gente, che insomma facciamo musica per... Ma dove suonate? Nei pub, nei locali, sì, eccetera? Dipende. In questo momento sì. Abbiamo fatto prevalentemente comunque locali, chiaramente dove l'ascolto sia diretto. Sì, ho capito. Chiaramente quindi sono pub locali, circoli culturali, dove la gente viene apposta per sentire aperta parentesi, però il live acustico dei Mary Posh è discutibilmente acustico, discutibilmente. Perché andiamo giù di bello, brutto. Bello, bello, bello questo discutibilmente acustico. E una cosa vi volevo chiedere, l'ho chiesto a tante band che sono venute qua, avete difficoltà a trovare dei posti, dei locali che suona musica vostra e non le solite cover? Ma... no. Dipende dai punti di vista. Dipende dai punti di vista, però questa frase che io ho sentito tante volte non mi trova d'accordo. No, c'è magari una difficoltà a più che altro a trovare una continuità. Ci sono le band che trovano la difficoltà, fanno apposta ad avere la difficoltà. La difficoltà c'è nel momento in cui tu anche un po' aiuti la difficoltà, nel senso che sono d'accordo. Lamentarsi sempre che ci siano troppe cover band non è giusto, perché comunque c'è tanta gente che fa musica per passione e va rispettato. Certo. Il problema è quando vogliono diciamo suonare tutti nello stesso posto, e il problema è del gestore, sì, che non fa una selezione. Quindi se in quel locale va solo musica originale, allora sì che ha un senso e quindi si crea un circuito. Se mescoli, dopo non capisci più se è gratis o pagando. La musica originale va pagata, chiaramente perché c'è, sì, un impegno diverso, non maggiore ma diverso. E quindi secondo me è più quello il discorso. C'è un po' di confusione nel gestire i posti. È quello che magari si fa fatica a suonare. Ho capito, benissimo. E chi è stato chiarissimo. Però ecco, dimmi. Quello che volevo dire è che quando sento persone sia giovani ma anche musicisti di un certo livello che dicono sono ridotto a fare le cover band, suonare con le cover band, far cover, e ci credo fino a un certo punto, nel senso, io credo che se uno ha piacere di fare arte in un certo modo, mettendosi in gioco in prima persona, fa arte, altrimenti fa qualcos'altro, ecco. Se ha bisogno, cioè se il suo obiettivo è avere un tot di soldi in cassetta la sera, come primo obiettivo farà cover band. Questo è chiaro, chiarissimo, perché i soldi li ha sicuramente facendo. Però ecco, sognare non si conclude così con una frase, secondo me. Giusto. C'è ancora chi fa arte perché ha un sogno, perché ha un desiderio di esprimersi, certo. Perché cioè, l'arte comunque è vita e vitale, secondo me, e va... incentivata. Certamente, sono d'accordo con te. Benissimo, allora passiamo al secondo pezzo, sempre da questo EP, che si intitola? Libellula. Libellula, un pezzo molto complicato, anche musicalmente. Complicato nel senso positivo del termine, ha tante facce, ha tante espressioni, sì, musicali, secondo me. Io l'ho sentito così. Lo sentiamo. Ascoltato, sì. E poi ne parliamo, ok? Ok. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Baby, parla un po'. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, giustamente Michele mi faceva notare, sì, beh, abbiamo mangiato un'arancia di Sicilia, è buona. Fa bene alla salute in questo periodo di raffreddori e altre cose, appunto, una cosa bella, naturale, la più bella cosa che esista, e dal vivo avete visto tutti quanti, cari ascoltatori, certo, che abbiamo mangiato una bella arancia. Poi le vendiamo anche. Esattamente. Ok, benissimo. Sentiamo, allora, abbiamo sentito questo pezzo. Abbiamo sbagliato. Beh, sì, ma metteremo un'altra, Nivello la metteremo dopo, esatto, parliamo di questo secondo pezzo. Questo invece Sole di Perla. Che pezzo è questo qua? L'avete... Guarda, è una domanda veramente difficile, nel senso che i pezzi dei Mary Posh, più forse anche di pezzi magari... Questo è il pezzo più pop, posso dirlo? Questo. Dalle sonorità un pochino sì, però in realtà l'ispirazione non viene mai dal pop. Io ti ho sentito un po' con una voce simile, cioè lontanamente simile, un po' a Cristina Donà, posso sbagliare. Ma magari ci sono delle venature, perché delle venature, comunque sì, il rock alternativo a cui si ispira magari un po' tutta la musica, quando si veste di acustico, perché poi invece in elettrico è diverso, ha un altro vestito, ha un po' un'aria del genere. E essendo poi io una cantante che viene dal pop italiano, che adesso da 6 o 7 anni si è avvicinata a un altro genere, e chiaramente lo confesso perché non è un mistero, ma dentro di me c'era già questa cosa che si annidava, probabilmente la cosa curiosa è proprio questa, che vengono fuori due cose e creano un genere, come se fosse un genere a sé. Ma il tuo inserimento nel Mary Posh è stato perfetto. Meno sempre. È stata un'intuizione nessuno molto. Nessuno ci avrebbe scommesso, esatto. Nessuno... Ma nemmeno io, devo essere sincera, perché adesso sono quasi sei anni fa, quando la band a cui mancava una cantante in un preciso momento del storico tempo, esatto, loro percorso, mi ha chiesto di fare un'ospitata che doveva essere una cosa solo di una sera, loro si sono accorti che c'era un feeling particolare di cui io magari non mi accorgevo all'istante, perché comunque ero molto legata al genere cantautorale, al genere pop, però ho sempre ascoltato rock, sempre, ma magari mai cantato. Loro hanno visto in me questa cosa che io non vedevo, certo, e mi hanno dato fiducia. Ma quindi, sì, giusto. Ecco perché poi vengono fuori queste cose adesso nei pezzi. Ma io ripeto, comunque, che Mary, dimmi. Per sottolineare quanto poche persone avrebbero scommesso su questa cosa, abbiamo registrato dopo poco dei provini, sì, perché abbiamo passato a tutte le varie... Cioè, ho la cuffia molto alta. Abbiamo passato alle etichette indipendenti e un po' tutti dicevano, cioè trovavano strana questa accoppiata. In realtà noi siamo andati avanti e io credo che invece la accoppiata sia molto riuscita e nel tempo migliori sempre più, perché comunque Veronica sta portando avanti anche tanti progetti e sta crescendo artisticamente. Ma il discorso di Mary Posh dal punto di vista rock, proprio come atteggiamento, le cose sono cambiate facendole. Ho capito, ma appunto prima parlavamo di Mary Posh, hanno tante facce e tu stai benissimo su queste facce, sicuramente. Sì, poi perché comunque tutto viene, ripeto, come ho detto prima, da un ascolto che ho fatto negli anni e mai espresso veramente con il canto. Loro l'hanno visto prima di me e ho avuto l'occasione di farlo veramente lasciandomi andare, perché magari da sola non l'avrei mai fatto. Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere a Daniele, l'inserimento della Laura. Scusa, Diego, ho sbagliato. Daniele, ho sbagliato. Beh, salutiamo Daniele. Ciao Daniele. Diego, l'inserimento di Laura, com'è andato il discorso? L'inserimento di Laura? Allora, c'è da dire innanzitutto che Laura aveva già lavorato con Veronica. Nel primo disco di Veronica. Poi, in un secondo momento, c'è stato... Com'è stato il giro? Ti ho portato a vederla a suonare classica. Oh, sì. E lui si è innamorato del suo violino e ha detto... Te suonavi classica, te, praticamente. Sì. No, suona ancora. Lei suona ancora classica. Suona divertimento. Un'altra specializzazione, dai, facciamo certo. Così. È bene fare un po' tutto. Cioè, chiaramente. Allora, certo. Quindi è stato quel momento là. Sì, e poi c'è stata comunque la proposta abbastanza incisiva di Giusy per il disco. Ho capito. E quindi dal disco effettivamente Laura è entrata nel progetto. E poi diciamo, mentre registravano, mentre bravissima, finché avevano già fatto una prima sessione di registrazioni e poi mi hanno chiesto di registrare un brano qui a Verona. Abbiamo registrato un violino, mi ha dato il brano, mi ha detto fai quello che vuoi, mi ha portato, poi abbiamo giocato un po', è piaciuto e poi ho finito la registrazione con loro. Poi sì, e in questo senso c'è molto interessante l'esperienza con John Bonner. Certo. Dei Dead Can Dance, e magari Laura può dire qualcosa di più perché c'è stato un lavoro sugli arrangiamenti degli archi. Sì. Com'è questa partecipazione così importante di un musicista così fantastica. Famoso? Famoso per un certo genere, sono un po', non è che siano decaduti, però sono un po' scomparsi. Dead Can Dance, sì, hanno fatto un po' la loro strada. Esattamente. Ed è giusto così, secondo me. E Pentatone è una persona magnifica, ci siamo divertiti con lui, ce l'abbiamo conosciuto anche al di là della vita di studio, queste cose, quindi è una bella persona e tuttora lo sentiamo, siamo in contatto, facciamo cose anche. Quindi lui ha lavorato con noi, si è innamorato della musica, ha detto subito mi piace e ha fatto un lavoro su due brani. E io ho registrato un violino, questa famosa traccia del primo violino che avevamo fatto a Verona. Lui sulla traccia ha fatto un arrangiamento per archi, abbiamo registrato e così è andata. Poi siamo riscesi per un altro brano e di nuovo c'è stata la sua collaborazione, è sempre molto bella. Decisamente. Ce la siamo vissuti molto bene. Sì. Benissimo, allora cominciamo questa nostra cavalcata a suonare. Sono certo. 22:35 e 13 secondi. Evitando la tosse. Evitando la tosse, ma si può evitare anche la tosse. Si può evitare la tosse. Ma certamente si può evitare la tosse. Adesso fra poco, qualche minuto, qualche secondo partiamo. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sola cosa in testa mi ferisce, mi rattrista l'anima. Abiti lontano è una scusa, si sa che se vuoi tu chiamami. Tu scappi, fai l'amore facile, non ci metti cuore, fai l'amore facile, te lo tieni stretta la tua vita è per te. L'imbarazzo mi tiene un poco stretta, gelosia è il nuovo sentimento, tu vai via, mi lasci senza fiato, tu vai via e non c'è un motivo perché tu stia senza me. Una sola cosa in testa mi ferisce, mi rattrista l'anima. Vivi in una bolla, ti difendi così e non sai deciderti. scappi, tu scappi. Fai l'amore facile, non ci metti cuore. Fai l'amore facile, te lo tieni stretta là. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sentita benissimo. Tu cosa senti? Ok, ci siamo? Perfetto, perfetto. Ci siamo. Siamo arrivati, abbiamo finito questo pezzo bellissimo, secondo me molto dark in alcuni momenti, col violino, il violino ha qualcosa di dark sicuramente. Sono forse io che do dei feedback molto positivi e stiamo cercando di trovare una soluzione, penso di essere io, sì, sono io. Comunque, ad ogni modo, smanettando tra le cuffie, io sento molto bene, grazie. Grazie dell'arancino. Bene, bene, sì, sì. Ma si sentiva bene anche prima, però. Sì, però cioè, chiaramente tecnicamente insomma, il signor tecnico lui ha perfettamente ragione. Attenti, non capivo cosa facciamo adesso, in ogni caso si sentiva bene, in ogni caso bene, il pezzo, bene. A me interessava il pezzo, era molto bello, molto interessante. Grazie. Molto ben costruito, cioè lui che dava il giro, che dava l'orchestrazione, poi il violino, che il violino è una cosa molto interessante, dà sempre quell'affare un po' dark, a mio parere, non so se sei d'accordo. Anche questo è un pezzo che in questa versione chiaramente è in un modo, mentre invece in elettrico, certo, è proprio stravolto. E questa è una cosa interessante, che comunque sono pezzi che riusciamo a forse il brano più riarrangiare. Punk dei Mary Posh. Esatto, perché poi in elettrico è proprio sparatissimo, velocissimo. E... Quindi hai detto il brano più punk dei Mary Posh? Sì, forse abbiamo approcciato anche questo genere in questo brano. Sì, c'è in questo pezzo, anche in pezzi nuovi che sta scrivendo, stiamo arrangiando e quindi c'è un po' di quello che dicevo prima, no? Che ci sono tante cose diverse. È bello che sia così, cioè io l'ho senza focalizzarsi così. Solo su un genere, quindi, o su un quindi suono. Se uno io vi ho sentito così, quando vengo a sentirvi dal vivo non sai cosa trovi, una cosa non diversa. Sai cosa può succedere. Non sai se ci trovi non sai se ci trovi sicuramente vi troverò allargati anche come formazione. È vero. Una cosa positiva, molto positiva. Quindi questo percorso di sperimentazione, possiamo dire di sperimentazione, siete d'accordo? Sì, perché no, certo, anzi. Sei d'accordo? Assolutamente, sì, sì. Siamo una band che non ha paura a mettersi in discussione, ma ci viene assolutamente naturale perché arriviamo tutti da esperienze artistiche completamente differenti. Abbiamo sentito dalla classica. La classica? Da cantautorato? Da cantautorato. E dai, da dove vieni? Io abbiamo già qualcosa hai detto prima. Ma sì. Son partito come volevo imparare a suonare la chitarra acustica blues. E quindi è mica male. Ho iniziato con il blues proprio. Mi piaceva tantissimo. E ho avuto la fortuna di avere un'esperienza importante a 14 anni con un progetto musicale che si chiamava Baby Rock Band. È ideato da un grandissimo jazzista che si chiama Marco Pasetto, è un clarinettista, sassofonista. Certo, lei non lo sa. Carambate in diretta. Caramba. Dirige tra le altre cose che fa Dixieland, dirige l'orchestra. Sì, lo conosco. L'University Ensemble. Sono andata anche a sentirne. Ecco, molto bravi. Bravi, sì. E niente, tu hai cominciato da là praticamente. Da là, da là. E contemporaneamente a studiare lo strumento. Ma da subito sono stato stimolato a scrivere brani e mi piaceva molto, mi piaceva scrivere. E così poi è stato naturale, tante esperienze, finché è arrivato Mary Posh e niente. Quindi Mary Posh, sì, ripeto, secondo me ha tante facce, ha tanti orizzonti, ha tante strade da percorrere. È per questo che facciamo paura alle produzioni, perché non hanno coraggio. Ho capito. Perché sì, vorrebbero una cosa ben determinata. E quindi ci dicono spesso... Da classificare. Sì. Non, facile da classificare. Ma voi non siete musica da classificare, assolutamente. Ma non c'è più nessuno che so, ti dà. Hanno paura, tutti quanti hanno paura. Oppure quelle che vogliono, magari giocano sul fatto, visto che noi vogliamo, voi ci venite incontro. Cioè, ho capito, cioè, esatto. Invece. Sì. Quindi siamo sempre. Mi è venuta là, sulla cena parlando di questo. Scusami, mi è venuta sulla cena, dico. Stavo. Esattamente. Peccato, però, c'è questo discorso. Però ci sarà qualche. Ma l'interesse per Mary Posh c'è. Stiamo assolutamente parlando nei grandi non numeri, è che. Cioè. Però non è semplice, non è semplice. Cioè, non siete un prodotto vendibile, dicono qualcuno. Cioè, siamo vendibili per certe cose, per altre meno. Per altre meno. Questo non vuol dire assolutamente nulla, se però è valida. Di fatto noi stiamo suonando, stiamo andando avanti e il nostro pubblico sta comunque aumentando in una maniera che, per esempio, io non mi sarei aspettato in maniera... diretta. Ad ogni un po' concerto, come si faceva una volta perché esatto, cioè. L'importante è far concerti, farsi sentire, farsi vedere, esatto, sì, questo è importante. Poi anche se non c'è qualche altro strumento, basta che ci sia la volontà di suonare, quello è importante secondo me, sì. Sì, suonare, questo è importante, sì, tanto che suoniamo, partiamo in due, la formazione in due, Veronica e io, e via via. Sì, siamo anche intercambiabili, sì. C'è questo aspetto molto interessante, nel senso che la band riesce ad uscire 2, 3, 4 e 5. Da uno solo, no, perché no, se canta lui siamo fregati. Esatto. Sì, interessante. Cioè, ecco, però se si impegnasse verrebbe molto bene. Sarebbe stato il mio sogno. Ecco, non sei un cantante. La cosa interessante è anche quando lui presenta un pezzo, riuscire a cantare e interpretare cosa lui ha scritto, ma tutto un mondo precisissimo, nonostante l'intonazione molto, molto personale. Tutti i pezzi, sì, abbiamo scritto delle cose insieme, però in realtà maggior parte dei pezzi. Per esempio, interessante. L'ultimo brano che abbiamo ascoltato prima, Sole di Perla, esattamente. Diciamo è stato il primo brano, sì, primo esperimento insieme. Esatto. Praticamente il brano era scritto, ma mancava la melodia, una linea melodica, soprattutto nel ritornello, e per questo c'era questo, secondo me, anche questa influenza pop. Sì, io l'ho sentita così. Perché sì, la melodia nel canto proprio nasce da un vocalizzo mio. Sì, esatto. E lui poi ha scritto testo. Vedi, ma ecco, quando uno c'ha l'orecchio fino... chiaramente. A me, cioè, lui è bravo perché fa il ricamo ai pezzi. Sì, stasera, in questo momento, ha fatto un vero e proprio ricamo ai pezzi. La Laura... ha ricamato col violino e tu hai ricamato con la tua voce, praticamente tutte le cose insieme danno un'identità particolarissima. E certo, questo è importante. Ma che bello, ci siamo incontrati qua a metà strada. Esatto. Bello. È perché siamo veramente una band, non siamo delle individualità. E questo è importante, siete una band, cioè questa cosa intercambiabili praticamente da 2, 3, 4, 5, insomma. Sì, però cioè, come dire, anche quando non ci sono gli altri due, certo, comunque sono con noi, nel senso, sì, ho capito, ragioniamo, ho capito, da band, ho capito. Siamo turnisti, ecco, ho capito. Benissimo, cosa dite? Sono 22:48, facciamo un altro pezzo, un altro live? Ma cosa sì, dite? Se facciamo un altro live. Ma vi facciamo sentire Purezza? Purezza? Non so visto dall'accordatura del chitarrista. Adesso mettiamo a posto l'accordatura. Ma io credo che... Per me sarebbe molto importante sentire la voce di Veronica, perché io non riesco siamo a sentire. Siamo sofferenti. Cioè, hai sentito? Sì, bellissimo. Cosa? Fammelo sentire un'altra volta, proprio dal vivo. Che, questa, come si pulisce pulitura... la corda? Col maglione, mi pare. Col maglione, vabbè, maglione vabbè, è molto punk. La cosa più bella che esista. Sempre anche in concerto. È giusto così, è bellissimo. Attenzione, attenzione. Adesso suoniamo, sì, Michele, adesso suoniamo. Siamo pronti. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. La purezza carezza e mi tondola. La purezza ossessione indelebile. La purezza è un richiamo alla dignità. La purezza disarma e benefica. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. Solo un ricordo, sei solo un ricordo. La purezza carezza e mi tondola. La purezza carezza e mi tondola. La purezza ossessione indelebile. La purezza ossessione indelebile. Ah, se fosse così facile. Sei solo un ricordo, solo un ricordo, sei solo un ricordo, sei solo un ricordo. Ossessione indelebile, la purezza è un richiamo alla dignità. Rockwave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Avevi un non respiro caldo. Più. Avevi un po' il caldo. No. Ma che bello, è il mio naso che sta bello. Andando proprio, proprio via. Pieno di pathos. Energia, energia, sì. Energia. Allora, c'è da dire una cosa. Dimmi. Ad esempio, questo brano, l'idea ritmica del brano arriva da Veronica. È tutto un dire. Ed il suo timpano. Ora quando si attacca al timpano non si toglie più. Questo è importante. E lo questo suona anche dal vivo. Benissimo, cioè. È bravissima. No, si è nata da un momento in cui stavo cercando una cosa io con la ritmica e poi abbiamo... Perché questo pezzo aveva tutta un'altra veste tempo fa e poi è diventato questo. Cioè, quindi tutto che cambia. Mi guardi e non fa bene. No, sto finendo... Tu ti dici finisci di parlare dopo ragione ti dico quello che penso. Allora io questa schizzata che ho appena finito di far purezza e quindi figurati, c'è tutto un mondo nella testa. Tutto ok, va benissimo. Il pezzo a me è piaciuto molto, era proprio potente. Grazie. Potente acustico e potente elettrico. Figurati, ecco, questo è uno dei brani in cui il violino elettrico, secondo me, ha trovato la dimensione importante per noi. E in questo c'è da ringraziare Giusy, che sicuramente ha avuto una buona intuizione. Del violino elettrico mi ricordo, non c'entra niente, ma tanti anni fa tu eri, forse neppure nata, c'era The Devil Laflan, The Beautiful, un gruppo americano degli anni 60-70. Devil Laflan aveva un violino spaventoso, bravissimo col violino. Era un gruppo rock, un gruppo vicino ai Jefferson Airplane, quindi si parla dei fine degli anni 60. Dopo me li segno. Devil Laflan. Benissimo, a proposito, salutiamo Vannuccio e Nino, che li aspettiamo domani. Vannuccio e Nino, domani con gli Oroferne. Ti aspetto domani assieme a Nino qui con gli Oroferne, ti aspetto. Bene, andiamo avanti. Ok, riparliamo di questo discorso. A me piace molto questo inserimento del violino e questa tua chitarra che dà un contorno, ripeto, dà un contorno, mi dà un che Dead Can Dance. Perché mi vengono in mente Dead Can Dance? Perché questo pezzo potrebbe venire fuori anche da un pezzo di Dead Can Dance. Vedi, o no? Perché c'è sintonia. Perché sintonia. Sì. Pazzia. Ecco, cioè, sì, pazzia, lui ha detto il termine giusto, follia. Sicuramente a Bonnar è piaciuta questa nostra psichedelia, perché sì, comunque è un approccio psichedelico. Sì, abbiamo la tendenza a suonare sempre rispettando, anzi cercando di valorizzare gli spazi altrui, cioè, certo. E questa cosa secondo me ormai crea naturalmente questo avvolgersi, questo venirsi incontro, e ci piace, per questo suoniamo assieme. Decisamente interessante questa proposta. Almeno io l'avevo, è la prima volta che sento questo pezzo, non l'avevo mai sentito prima, non fa parte dell'EP, quindi non potevo ascoltare. Certo, sarei... ma soddisfatto, tanta energia. Io lo vedo come un mare, cioè c'è quest'onda che parte, magari l'impulso da Diego, sì, oppure piuttosto che magari l'arrangiamento di qualcuno. Diego è questo pezzo totalmente. Sì. Però ripeto, l'idea c'è scritto timpano di Aurora Ricamati. È stata molto importante, cioè, sì, sì, nel non senso, è uno scherzo, così. No, battuta, sto scherzando io perché. Cioè, un'idea di groove semplice, mi è piaciuta subito, cioè proprio come istintività. Ed il brano è così, è istintivo, è semplice, non è ricercato. No, è semplice, sì, però. È semplice, però allo stesso tempo è complesso, ci sono tante sonorità. Semplice, stasera l'avete fatto così: chitarra elettrica, violino e voce di Veronica. Però. Con la sezione ritmica ovviamente esplode. Sì. Aumenta, c'è una jam session continua, se mi è consentito il termine. Sì. Possiamo vedere. Sigaria, che bello, sigaria mi piace particolarmente. Beh, spesso capita, direi sempre, sì, non solo in acustico ma anche in elettrico, che a un certo punto il pezzo dovrebbe essere finito, ma andiamo avanti. Sì, a oltranza. È giusto che sia così. Fluisce, fluisce deve proprio. Deve essere così, la gente... Deve sapere che una band parte con un pezzo e poi può allargarlo. Esatto, c'è sempre un momento di improvvisazione. Questo siamo i maestri ultimamente. E quello è così. Grande improvvisazione. Le vere rock band sono così, secondo sì, me. Certo. La vedo così. Una volta divertirsi si faceva così. Prima di tutto, però. Una volta cioè, si secondare così. Anche il pubblico, poi se nasce qualcosa. Una volta si faceva così, si suonava così. Non c'era, mi ricordo sempre i Grateful Dead, non so, voi li conoscete? Sì, quelli sì. Avevo concerti di 7 ore, 5, 6, 7 ore. Che, ecco, ci fermiamo un po' prima noi. Beh, però anche perché siamo prima, nel 2010 non verrebbe compreso. Improvvisavano tutto in continuazione. Sì. Vabbè, che erano i Grateful Dead, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Si può improvvisare lo stesso. Sì. Per esempio, ecco, una scelta che abbiamo fatto nell'EP è stata in questa versione di Libellula, che ascolteremo poi. Volutamente vicina ai 6 minuti bello di durata, cioè, comunque volevamo lanciare un segnale che oggi è tutto veloce e la psichedelia come si faceva una volta, cioè, non trova spazio nei canali perché mediati. Non c'è il tempo di ascoltare proprio. oltre 3 minuti standard sono 3 minuti, oltre 3 minuti fine. Non c'è più niente da fare. Però ecco, comunque noi a nostro modo, questo era il nostro EP. Esatto, quindi abbiamo deciso di abbiamo farlo, scelto di fare quello che ed è stata molto apprezzata. È un brano che è stato veramente apprezzato. A me piaceva, ripeto, prima parlavamo a microfono spento, di bello, era un pezzo interessante, dopo lo sentiamo, ma era interessante perché non ha, ha tante chiavi di lettura, secondo me. E dal vivo direi che è il brano che crea il tramite diretto con la gente più forte. Penso che sì, possa dirlo anche tu, sì. Dimmi. No, infatti stavo pensando proprio al coinvolgimento. Perché prima ho detto siamo nel 2010, non verrebbe compreso. In realtà invece le persone non sono cambiate. Le persone hanno sempre lo stesso bisogno, che è quello di emozionarsi e divertirsi. Quindi vuoi che sia per 2 minuti e 30 con un pezzo tirato, o vuoi che sia attraverso l'improvvisazione, se tu glielo dai, se tu gli fai capire che tu ti stai divertendo, loro si divertono. Sono d'accordo. Perché la gente non è stupida. No, assolutamente. È chi pensa che sia stupida che crea... Star Way to Ive durava 9 minuti e 25. Parliamone. 9 minuti e 25, ma si chiamava Star Way to Ive. Sì, a proposito, 22:59 e siamo arrivati al gioco. Ah, eccoci. Io sono arrivato apposta al gioco. No, dopo facciamo dopo. Dopo facciamo un altro pezzo, sentiamo Libellula. Allora, siccome la traccia io, numero 3, vabbè, sentiamo Libellula, così dopo parliamo assieme. La traccia numero 3, grazie. Ok, Rock Wave, l'onda del rock. Desiderio ed attrazione stuzzica, ti stuzzica. Di forma in forme nuove, la luna insegue il sole. Di forma in forme nuove, la luna insegue. Alla luna spera, tuo sole arriverà. Splendida, splendida, e scurita, cancella il timore. Se bastasse poi dire cose senza senso per averlo ancora qui. Acqua scivola su te e separa la tua pelle se non posso. Ah. Blu Radio. Sono le 23 e 5 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Ci potete sentire e vedere stasera con i Mary Posh, trio di ragazzi di Verona. Abbiamo sentito Libellula, questo pezzo molto strano, molto positivo secondo me musicalmente, sì, parlando, con tante chiavi di lettura, come abbiamo parlato prima, abbiamo detto prima. Esatto. E le chiavi di lettura adesso sono a proposito, perché abbiamo 5 dischi da portare, ecco, su un'isola deserta. Una cosa fondamentale, è una ghigliottina. Ogni volta che fai questa domanda è la ghigliottina di Rockwave. C'è poco da fare. Chi comincia? Lui. È lui. Comincia lui. Mi ha imbrogliato. Allora, sì, ho approfittato di questa micropausa. Che non sarebbe da regolamento scrivere. Ma io non sarebbe problema, da regolamento. È la memoria. Obiettare. Ok. Allora, non potete assolutamente fare a meno sulla vostra fantastica isola deserta. Come ha cambiato deserta, voce per, eh? Dire questa cosa. Poi la sviolinata. Sì, con sviolinata. Allora, secondo me, io ci metterei James Addiction. Ah, bello, qualsiasi come mai? Disco, qualsiasi disco di James. Qualsiasi disco. Bene, bene. A scelta, bel perché... gruppo. Non vale, scusami. Sì. No. Tutti i dischi, beh, allora no, anch'io posso discografia intera dei Queen. Beh, lo puoi dire. Un disco di James Addiction. James Addiction, sì, è una band... straordinaria. Fantastica, fantastica. E, poi ci metterei... Ivy Weather dei Weather Report. Sai, molto surraffinato, praticamente. Sì, c'è, cioè, questo per... Come mai Weather Report? Weather Report? Perché mi piace molto Jacopo Astorius. Ma è forse il più grande bassista, sì, di tutti i tempi, sì, a mio parere. Sì, sì, un grande. A me piaceva Sing the Body Electric dei Weather Report. Ah. Perché è il disco meno più rock, forse meno ancorato a certe sonorità jazzistiche. Sì. Quello, per quello forse, Sing the Body Electric, il famoso disco del grande successo di Weather Report negli Stati Uniti, la CBS, l'etichetta, la Columbia, la Columbia, etichetta rossa, quella di Bob Dylan. Ok, vai. E poi ci metterei Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Come mai Guns N' Roses? Perché secondo me, cioè, ho sempre pensato che Guns N' Roses abbiano superato la pochezza del rock degli anni 90. Hanno fatto pochi dischi. L'ultimo ha avuto un insuccesso clamoroso. Sì, però io lo considero un'altra cosa. È un'altra cosa. Non sono i Guns N' Roses, no, è Axl Rose e la sua paranoia. Insomma, sì, però direi che hanno dato abbastanza nel tempo in cui hanno d'accordo. Suonato. Cioè, sì, nel senso, hanno superato qualsiasi. In tutti i sensi hanno superato. In tutti i sensi. Esattamente, io ricordo. Però Appetite è un gran disco, secondo me, per chiunque ami il rock. Sono d'accordo con te. E ci possono essere delle cose contestabili per quello che riguarda le tematiche, sì, però è assolutamente rock and roll, cioè, in questo senso. Io ricordo una versione strepitosa di Knockin' on Heaven's Door fatto da loro, quindi sì, è una cosa incredibile, sì, secondo me. Veramente fuori, cioè, World on the Watch Tower di Jimi Hendrix ha rivisto il pezzo di Dylan. Loro hanno rivisto il pezzo di Dylan in una maniera hanno praticamente creato un pezzo di Guns N' Roses. Sì, sì, sì. A mio parere. E poi ci metterei, anche qui metterei uno a caso, però consiglio I Lupi di Ivan Graziani. Ecco, dunque sono passati 5 anni di Rockwave, nessuno ha mai citato Ivan Graziani, sei stato il primo. Ma io sono innamorato di quest'uomo. No, come disco, come mai Ivan Graziani? I Lupi è un grande album. Sì, sì, perché, non lo so perché, cioè lo so perché mi sono innamorato di lui artisticamente. Ho avuto la fortuna di vedere un po' di concerti suoi, ho anche il suo autografo. È un grandissimo chitarrista. Per me, cioè, io lo considero il più grande cantautore di provincia italiano. Quando... Ecco. È perfetto. Michele è arrivato giusto al momento giusto. Sì, cioè, quello che mi piace di Graziani, al di là dell'aspetto chitarristico, che è un grandissimo chitarrista ritmico, certo, forse il migliore che c'è stato in Italia. Sono d'accordo con te, un maestro. E spesso le sue canzoni non rappresentano magari questo aspetto, però c'è anche questo. E per me ha una poesia, aveva una poesia, un modo di scrivere malinconico ma nello stesso tempo ironico. Sì, guarda, leggi Pigro, le note di Pigro. Pigro è un grande pezzo ironico, duro, durissimo. È durissimo. Però che piace a tutti. Certo. Cioè, Pigro ha fatto un grandissimo successo e piaceva anche ai pigri. Esattamente, un pezzo però durissimo, un pezzo sì, con un testo molto duro. Cioè, contro tutto una classe sociale. Certo, secondo, certo. Cioè. E poi queste ballate meravigliose che secondo me in qualche modo rivanno a pescare negli chansonnier, sì. E quindi comunque in una tradizione anche italiana, culturale, letteraria. Lui ha fatto anche degli esperimenti, anche ricordo non ricordo l'anno, direi una cavolata, è andato a Sanremo con il coro, sì. Ha fatto delle bellissime ninna, ha scritto delle bellissime ninna nanne anche in dialetto. È un artista da conoscere. È un ricercatore praticamente su certe cose. E molto amato dagli artisti. Sì, ho scoperto gli artisti, anche i grandi artisti, quelli della musica pop, della musica rock italiana, quelli che ascoltiamo in radio. Grandi stimatori, e ha suonato, non so, ha suonato con Renato Zero, poi con chi ho suonato, di altri personaggi non ricordo, è con Lucio Dalla, ha fatto tournée come chitarrista, però ha sempre scritto, ha una discografia ricchissima. Ci sono anche alcuni dischi che non sono mai stati pubblicati, e non a caso a tutt'oggi c'è un concorso nazionale per valorizzare il ricordo e comunque l'arte di questo grande artista. E qui perfettamente sviolinata, no, ma è giusto per che Iva, sia così. Ma per Iva Graziani merita tutto, sì, al 100%. E quando, per me è stato un po' triste quando lui è mancato, che ha avuto un tumore, sì, esatto. Qualche anno fa, non ci sia stata una mobilitazione immediata forte, però attraverso i fan, se si cerca su internet si può scoprire veramente un artista anche molto prolifico, perché ha scritto tantissimi brani, tantissimi, e si può trovare su ivangraziani.it tutti i suoi testi, le sue musiche, molto molto bello, scopritelo se vi piace. Indubbiamente, è un'occasione molto interessante. Ok, l'ultimo tuo disco? L'ultimo ci metterei Post Orgasmic Chill degli Scancanensi. E come mai Scancanensi? Che verranno a Mestre fra due o tre mesi, quindi se uno vuole andare al festival di Anakin ci saranno il Pearl Jam, ci saranno i Black Eyed Peas, sapete tutto, e anche gli Scancanensi. Ho avuto la fortuna di ascoltarli a... in Portogallo, eri in giro là? Ero là, sono andato, ho approfittato dell'occasione, certo. Volevo vedere un concerto fuori dall'Italia e... Eccola qua, bravissima, lei è bravissima, sì. una voce incredibile, proprio una presenza scenica incredibile, sì. Bravissima. E li ho amati quando hanno iniziato la loro carriera e mi piacciono tantissimo ancora adesso, hanno una forza, una grinta, sono una vera band. Sì, indubbiamente. Sono una vera band e questo è quello che mi piace tanto lei, a me piacciono le cantanti, le donne che cantano, mi piacciono molto. Non ce ne sono tante nelle rock band. Non ce ne sono tante. Però quelle che ci sono. Quelle che ci sono hanno veramente una marcia in più. Esattamente. E la cosa bella di Skin, secondo me, in questa veste è che trasmette comunque una positività. È un rock positivo, anche nella durezza magari di alcuni testi, nelle sofferenze che racconta, però c'è sempre un filo di speranza e di gioia anche di vivere. Sì, indubbiamente c'è stato un momento di pausa e poi hanno ricominciato, sì. Adesso hanno ricominciato con una raccolta con due pezzi inediti e via, adesso sono ritornati a girare e li vedremo fra qualche mese a Mestre all'Heineken Festival. Tocca a te o alla Laura? Prima la violinista. Ah, prima la violinista. Sapevo io. Beh, allora facciamo così una pausa, portiamo un po' di classica. Facciamo un po' di classica. Mettiamoci un pizzico di classica. Facciamo un pizzico di classica. Se dovessi andare in un'isola deserta. Sì. pensa un po'. Allora, devo portarmi una cosa senza la quale non potrei vivere, che è il quintetto di Schumann, che beh, una musica che mi accompagna da un sacco di non tempo. L'abbiamo io, quello, io ho vissuto, non l'abbiamo, mi manca. Quello non l'abbiamo. No, non non dire mai, mi hanno detto. Non il dire quintetto. Mai. Non dire mai. non ce l'hai. E poi un altro suo vicino, però posso fare un CD solo perché durano giusto il tempo. E, che è Schubert invece. Che la morte della fanciulla, forse quella. Secondo me non ce l'hai neanche questa. Non ce l'hai neanche questa. Si può sempre tentare. No, vabbè. No, okay. Che sono una parte della classica. Cioè, fondamentale non potrei per vivere te. Sì, sì, sì. Ascoltateli se vi capita, soprattutto dal vivo, che fanno, sono di un'energia, una forza incredibile. Poi porterai un'artista italiana che è Mina. Quale Mina? La Mina di una volta, la Mina del percorso porterei a metà o la Mina ultima Mina? No, porterai del Mina del percorso a metà. Con Battisti. Cioè, porterei non sì, oddio, ma cioè, mi è sempre piaciuta, cioè, anche ovviamente gli inizi, però ovviamente in un modo diverso. Però ci sono delle cose che mi hanno colpito anche di quel periodo. Non mi dispiace anche nella veste ultima, comunque, dove ha toccato un sacco di brani e ce li ha rifatti sì, a però, suo modo. Qualche volta... Non i suoi dischi, non sto parlando dei suoi dischi, però sono tipo un po' troppo ripetitivi. Registrazione di studio, il live, il DVD che ha fatto molto bello. E, cioè, perché lei è di una... Cioè lei, può fare tutto. Cioè lei può fare tutto. Lei può fare tutto e lo fa divinamente. E Michele vai. Pesca. E tu non puoi sentire perché non hai le cuffie addosso. Michele pesca sempre le cose. Ehi, voce da radio. E quindi. Okay. Sì, mi viene in mente cioè, la canzone di Alex Britti che ha rifatto, per esempio. Sì, cioè, io. Come la fa lei? È quel pezzo che ha scritto assieme agli After Hours. Oddio, i due pezzi. Sì, due pezzi. Esatto. Secondo, ma che bellezza. Quindi Mina ce la portiamo. Ma l'unica cosa negativa, se posso dire, se mi è consentito, negativa, sono i dischi che ha fatto, tanti dischi simili, tanti dischi uguali, secondo me, troppi dischi. Sì, infatti dischi volevo portare lei più che i dischi, cioè portiamo, andiamo a prendere Mina, cioè vieni, tanti così doppi. Ogni mattina mi canti una canzone e poi siamo felici. Beh, ha fatto la canzone di Marinella, ragazzi, quindi se non c'era lei non c'era neanche De André, no? L'ha proprio sdoganato, è stata lei a sdoganarlo nel proprio senso del termine. Comunque noi siamo disponibili ad accoglierla a duettare con Veronica. Avremmo già scritto, non le diamo la possibilità di suonare un brano senza Veronica, però no. il duetto si potrebbe fare, cioè, va bene. Ok, ma seriamente non è una battuta. No, bene. Sono io che la prendo come una battuta. Eccola, ok. Proseguiamo con Damien Rice. Bello quello Damien Rice, bravissimo. Il primo album era meraviglioso. Sì, beh, ma anche il secondo. Anche il secondo, un po' meno secondo me. Un po' meno, però. Il primo album era meraviglioso, era strepitoso. Un pugno sullo stomaco positivo. Devo dire non che negativo. Anche dal vivo. L'hai visto dal vivo? Com'è dal vivo? Fantastico. È fantastico. A Ferrara. Ah, a Ferrara l'hai visto. Sì, è venuto più di una volta. Con Stella Cometa annessa. Ma c'eri anche te? Eh sì, bellissimo. Damien Rice è un grande artista, un artista che ha fatto delle cose molto belle e molto, molto amato, secondo me, nonostante che abbia avuto, sì, ha avuto un grande successo col primo album, poi si è un po' rallentato, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. È un grande disco, è tanto bravo lui. Eccezionale. Bene. Poi c'è una famiglia che vorrei portarmi, okay, che ho scoperto ultimamente, ma forse non sono i miei preferiti in assoluto, però... ho scoperto Tom Baxter e in Francia ero in vacanza da un mio amico e ho scoperto che a lui piacevano artisti e mi ha detto devo farti sentire uno che ti piacerà un sacco, va bene ascoltiamo, io gli ho detto ma sai anch'io ho uno da farti sentire che ho appena scoperto, insomma siamo in spiaggia e lui mi fa sentire il suo pezzo, io gli faccio sentire il mio e poi mi fa ma sai che lui ha anche un fratello che suona, gli ho detto ma sai che anche il mio ha un fratello che suona, torniamo a casa guardiamo su internet, sono fratelli. Questi sono Tom Baxter e Charlie Winston. Adesso stiamo cercando la sorella. Ho capito. Che però sono la scoperta di quest'estate, sono divertente. Magari non li porterei proprio nell'isola, però sono in questo momento mi piace. Vai. Come sempre tu Tom non hai le cuffie, non puoi sentire. Non puoi sentire Tom Baxter. vedi, Michele l'ha già pescato. Le mie cuffie sono morte. È bravo. Le mie. E sì. E poi volevo portare anch'io gli Skunk Anansie, ma signorina, però avrei portato Stush forse. Ah, ok. Ti piace Tom Baxter, però? Sì. Sì, molto. Sai che l'ho conosciuto poco, io lo conoscevo poco, invece Michele lo conosce bene. Beh, lo conosce. Abbiamo capito. Penso di aver terminato anche, forse ne ho. Sì, li hai terminati. Sì. Sì. Tocca a te adesso. La Lady. Adesso. Aiuto. No, stavo pensando che è la terza volta che dirò gli stessi. No, non puoi dire gli stessi. Qualcuno non si ricorda. Ma l'isola è sempre quella. No, l'isola dei famosi che è cominciata. Io volevo portare anche Valerio Scano, se possibile. Come mai Valerio Scano? Ma quello è piccolino, ci può stare. Marco Carta o Valerio Scano. Anche no. Lasciamo da parte. È già capitato, ha vinto Valerio Scano. Ecco. C'è niente da dire. Mi si è rivoltata la cena per la seconda volta. Dimmi allora. Il primo disco che porterei con me è Grace di Jeff Buckley. Quello è un grande disco, un mitico disco. Ha fatto solo quel disco là. Perché purtroppo ha fatto solo quel disco là? Se n'è andato troppo presto. E non era solo il papà, però era lui. Forse un altro modo di fare, un altro genere, un'altra maniera, un altro percorso. Bravissimo, straordinario. Secondo me è proprio perché è il disco, nel senso è come se non potesse esserci nient'altro dopo. Nonostante, comunque, se tu acquisti. La madre aveva tirato fuori altre registrazioni. Sketches from. Sì, certamente. Ma sono tutte cose messe là così. Sono cose belle, sono d'accordo, però non è un disco completo. No, si intravede che ci sarebbe stato un bellissimo disco. Esattamente. Però non. E quindi in questo modo porti via un capolavoro, che è l'opera prima, quindi. E tutto quello che lui ha fatto anche dal vivo. Quindi, sì. Insomma, tutto quello che. È un passaggio di caramelle. Sì, ho visto. Dal vivo si vede tutto. Distraggono, già è difficile di suo. Si vede tutto. In ogni caso, Mississippi l'ha inghiottito, purtroppo. Eh sì, io poi mi sono documentata molto perché ho fatto uno spettacolo su di lui e lo amo, l'ho amato e lo amerò sempre e quindi cantare anche le sue cose alla fine è una sfida e si sa già in partenza che non si riuscirà mai. Esattamente. A fare una cosa degna. Però il bello è proprio questo, che già parti con la coscienza. Sentire che fai. Alleluia di Leonard Cohen, sentire Alleluia di Jeff Buckley, sono due capolavori in assoluto. Sì. Jeff Buckley la colora in una maniera strepitosa. Alleluia di Leonard Cohen è un suo pezzo. È una struttura unica. Esattamente. Sì, sì. E questa è la bellezza del fatto che è un pezzo talmente bello che può essere interpretato in maniere molto diverse tra loro. Solo così può interpretare, solo Buckley lo intervistava. Lui. Solo lui. E basta. Proprio perché era un angelo, no? Esattamente, perché era un angelo. Il secondo disco è di una cantautrice italiana. È difficile scegliere quale dei dischi suoi, però ogni volta che ci penso poi alla fine scelgo sempre lo stesso. Dimmi. Carmen Consoli, Confusa e Felice. Ma Michele più che altro mi piace particolarmente a me personalmente Carmen Consoli. È un disco capolavoro, ma credo che comunque io sto portando sull'isola delle cose a cui sono legata. Eccola. E magari non sono stilisticamente perfette, no? Non hanno una. Non si può dire inopinabilmente che quello è il disco migliore di o il disco migliore della storia della musica. Ma io porterei qualcosa che a cui non potrei fare a meno io, come emozione. Infatti è pieno di imperfezioni questo disco. Però è bello. È bellissimo. È bello. Cioè, PS, andate a vederla in teatro. È bella. Fantastica, vista lunedì sera. L'hai vista lunedì sera. Fantastica. Cosa ne pensi del nuovo disco che ha fatto? Io lo vivo come un blocco unico. Cioè è una canzone che inizia dal primo brano e finisce l'ultimo brano. Cioè magari non c'è il brano che spicca, però mi piace ascoltarlo così liberamente. Ovviamente dal vivo mi ha dato un'emozione molto diversa, molto più profonda. È proprio matura. Cioè certo. L'ho vista. Dobbiamo, è stato bello. Dobbiamo dire una vederlo. Cosa, è stata sdoganata da Sanremo anche lei. C'è poco da fare. Ma meno male, perché meno non male, se la meritano, secondo me. Era brava. È stata sdoganata da Sanremo anche lei. Vai. In ogni caso, Carmen Consoli, sono perfettamente d'accordo con te. Con tutti i dischi che lei ha fatto, sì. Più buoni o meno buoni, non lo so. Però ha fatto sempre delle cose belle durante tutti i suoi dischi. Sì, sì. Nell'interno proprio dei pezzi. E poi secondo me in Confusa e Felice ci sono alcuni primi accenni di quello che sarebbe stata la sua carriera vera. Perché tanti dicono mediamente Isterica che sì. È il disco più bello. Il disco più bello. Perché sì. È rock, perché è innovativo. Ma secondo me sono solo parole. Perché in realtà lei ha, come giustamente tutti gli artisti veri devono avere, tante facce. Certo. E chi non accetta il suo cambiamento, tra virgolette, del momento, secondo me non riesce proprio a seguirla. È come se fosse complice di un tirare indietro nella sua arte. Invece certo. Lei scorre via e ti saluta, ti fa ciao ed è molto più, sono molto oltre. Difatti in questo disco ha cambiato molto. Eh sì, decisamente ha cambiato. Sta trovando una strada nuova. Strada anche difficile, forse nuova. Sì. E poi il pubblico coraggioso. Poi il pubblico può essere sì o no d'accordo. Mm. Però lei ha mandato avanti questo discorso qua. Quindi Carmen Consoli, sì. Ok. Secondo disco, poi terzo disco. Io non ce la faccio, cioè non resisto, devo portarmi via Venditti. Quale di Antonello? Quello che dico sempre, perché proprio una Mortuorius Campus, quello con De Gregori. Allora cominciamo a ritornare molto indietro. Torniamo indietro, sì, solo che il folk studio praticamente. Tanti cantautori. Poi Vannuccio che mi sente. Cioè il folk studio, quindi è l'inizio di carriera di Antonello. Sì, sì, sì, sì. Ma non tanto perché sì, qua siamo oltre, siamo Non importa, però io arrivo fino qua, fino a questo disco qua, Buona Domenica, secondo me lui ha dato questo tanto. A me non piaceva molto, sai cosa mi piaceva molto di Antonella? Dopo... mi piaceva moltissimo quel disco che lui ha fatto dopo Teorius Campus, molto Elton John, vicino a Elton John praticamente. Sì, c'erano tante, forse Lilli, non so se dico no, Lilli ancora prima cavolata, di Lilli. Ecco, vedi. Cioè, ma Lilli non temporalmente era un brutto ricordo. Disco Lilli, perché tu infatti io li amo Lilli, non c'era tutti. Solo Lilli dentro Lilli, scusate la ripetizione, c'erano altre cose interessanti, quindi Teorius Campus, Venditti, De Gregori. Sì, perché, e poi lo dico perché tanti cantautori, ecco, miei Lilli. Colleghi direbbero De André o De Gregori da solo e snobbano Venditti, ma all'inizio Venditti era, Venditti all'inizio del folk studio c'era Venditti, c'aveva la voce rock, secondo me. Voce rock certamente, e quindi c'è tutta una serie di ingredienti periodo. E poi vabbè, io lo ascoltavo mentre facevo i compiti e ti facevi bene i compiti, non è un dettaglio, sì, facevo dei compitoni avevo di quei voti meravigliosi, lo sai, tu lo saprai sicuramente, ha scritto un libro di recente Venditti, ma non l'ho più, guarda, non ho più seguito con assiduità la sua carriera, anche perché le ultime cose non mi entusiasmo, no, assolutamente. Però da distante, così ogni tanto guardo quello che fa e insomma mi scatta la lacrima per il ricordo di alcune cose. E non sapevo che aveva scritto un libro, vedi? Ha scritto un libro, una sua biografia, e poi aveva fatto uscire qualche tempo fa quel disco dedicato alle donne. Tutte le sue donne, sì, sono tante donne che ha scritto tanti pezzi. Ma sì, ma glieli perdoniamo, dai. E li perdoniamo. Sì, okay. In ogni caso, ha scritto tanti bei pezzi. Questo è terribile, io penso che. Ma sai, perché l'amore? Perché comunque per me potrebbe cantare quello che vuole, tanto a me piace lo stesso. Aspetta, dove sono arrivata? Terzo disco, quarto disco. Sai che stavo pensando? Dimmi. Che sono confusa. È felice, l'abbiamo già detto. Porterei una discografia mista di Billie Holiday. Interessante, cioè, quella. Non abbiamo quella, Michele. Sì, l'abbiamo Billie Holiday. No, porterei nel jazz, siccome il jazz è stato tanto per me. Porterei lei perché è un artista che non sapeva cantare, no? Mm. E si è trovata a cantare per sopravvivere. Certo, questo è verissimo. Quindi ha portato nel mondo del jazz una verità che non è sofisticata, cioè non è un jazz sofisticato, e questo a me fa impazzire, perché è come sentire quando canta Gino Paoli, per dire, sembra che ti stia parlando anziché cantando. E secondo me è la cosa più vincente nella musica in generale, l'immediatezza e senza l'orpello particolare che non serve andare a cercare. Quindi Billie Holiday. Il quinto disco, che non è l'ultimo, è solamente un quinto per modo di dire, cioè l'ultimo, sì, della lista, però questo non vuol dire che sia il peggiore degli altri quattro, chiaramente. Il quinto disco è per forza di cose Jagged Little Pill di Alanis Morissette. Ecco, il disco da 20, perché... da quasi 20 milioni di copie. Sì, ma perché poi torno a ripetere, porterei dei dischi che hanno segnato la mia vita, e nel 96, quando io ho scoperto lei, sono rimasta, cioè ho proprio cambiato il mio modo di ascoltare la musica. Poi ha cambiato anche lei. Poi lei sì. Molto ha cambiato. Si è tanto poppizzata. Sì, come si è tanto poppizzata. Si è tagliata i capelli. Si è tagliata i capelli. Le ragazze subito si è tagliata i capelli. Mi pare giusto, Laura. Certo. Si è ricordata. No, dicevo, è successo sì. qualcosa. Si è tagliata i capelli. Certo. Però anche lei, come la Consoli, come tante artiste, magari in disco dà delle cose, ma dal vivo non ti delude mai. E questo è quello che deve essere, secondo me, un artista. Certo, quel disco lì è stato per me. Io avrei scommesso rilevante. Che citavi Tori Amos. No, anche se mi piace molto. Io avrei scommesso questo. L'amiamo tutti Tori Amos. Sai, sono Ivano Fossati. No. Il problema è che sono cinque. Lo so. E chiedere a un musicista di portarsi cinque dischi è come chiedere di scegliere tra mamma e papà. Sono d'accordo con te. Sorella, qua il regista mi dice tagliare, chiaramente abbiamo. Basta. No, hai detto niente. Tori Amos, ecco, Tori Amos. Bravissima. C'è Diego che vorrebbe dire Dimmi qualcosa di Tori Amos. No, beh, Tori Amos assolutamente Under the Pink. Io credo che sia un disco meraviglioso. Chi ama il pianoforte si può fare dei bei viaggi mentali, perché è veramente veramente bello. E i brani sono veramente belli. Quanta gente ha iniziato a suonare il pianoforte perché sì, cioè, è di una libertà e di un calore incredibile. Diego, hai sentito il disco che ha fatto di Natale te? Ho sentito un brano. Direi che è un disco meraviglioso, perché non è un disco di Natale, è un disco di canzoni d'inverno che lei ha ripreso, con qualche brano natalizio, quel brano tradizionale, riveduto e corretto con la sua maestria, con la sua forza, il suo modo di suonare. Difatti non ha avuto nessun successo. Però questo non vuol dire assolutamente nulla. Certo. Un disco meraviglioso, un disco natalizio. Erano tre dischi natalizi che quest'anno sono usciti. Quello di Sting, quello di Bob Dylan e quello di Tori Amos. E secondo me quello di Tori Amos li superava di gran lunga, a mio parere. Però è una mia impersonale parere, però quello era meraviglioso, come tutti i dischi di Tori Amos. Un po' troppo lunghi qualche volta, Diego. Un minutaggio da 74, 70, quasi 78 minuti qualche volta, però con e grande le grandi raccolte, con grande fascino. Bravissimo. Io credo che sia un artista che si è costruita una strada. Sentila, un carattere incredibile. Bellissimo. Per cui, cioè, io credo che stia bene così. Sì, cioè, sì, sono d'accordo con te. Spezzettarla non sarebbe molto, non avrebbe lo stesso effetto. No, molto autonoma. Deve essere lei e basta. E questo è importante. Adesso abbiamo i Mary Posh che suonano non autonomamente, ma insieme. Cosa dite? Eccoci. 23 e 32. Naso permettendo, come sempre. Naso permettendo, diretta a rockaway.altavista.org con Michele Toson in regia. Fondamentale Roberto Baldi che ha curato le telecamere, ricordiamo anche Alberto Prisco che ha curato l'organizzazione e Maurizio Gazzavara al microfono. Cosa ci suonate adesso? Ah, non mi ricordo più. Ah, non ti ricordi più. Odio ragione. Odio ragione, perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Sai che non mi importa. Io voglio solo questo da te. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ladies and gentlemen, i Berry Posh. Bravissimi, bravissimi. Ah. Veronica, Laura e Diego. Complimenti a Veronica perché cioè, è senza voce. È senza voce. Però nonostante tutto, cioè, tiri fuori anche l'ultimo quello fino sotto. All'ultima nota. Fino all'ultima nota. Pezzo molto bello anche questo. Grazie. Ripeto, secondo me anche questo pezzo sa di aria un po' gotica. Posso dire questo? Infatti, Bonnara... ha collaborato. C'è ancora lui. Sì. Chiaramente, idealmente, parlo sempre idealmente. Certo. Però un po' di gotico c'è, soprattutto il violino che mi dà del gotico. Sì, sei la prima persona che me lo dice. Perché vedi come nera. Non in senso negativo, in senso positivo. Io lo sento così. Mi ricorda un po' Paul Roland. Non so se conoscete Paul Roland. No. Musicista. Vedi che ignorante. Comunque siamo un po' dark, è vero? Sì, sì, un po'. Ma non è mica negativo. Ma ce l'ha detto più di qualcuno. Certo, certo. Siamo un po' gotici. Non è una scelta voluta, no, cioè non è che andiamo a cercare. E io l'ho sentito così adesso, questo era un pezzo, chiaramente non faceva parte del disco, quindi non lo conoscevo, però l'ho sentito così, mi dà quell'effetto là, nonostante che Veronica tenti di levare via tutto, ma ha levato bene lo stesso, è stata bravissima lo stesso, anche se hai una voce un po' particolare. Aiuto. Però sei stata bravissima lo stesso. E poi il violino, e questo Diego che colora, cioè questi arpeggi, questa chitarra molto ad effetto, effettata, volutamente effettata. Amo i reverberi. Non sarà capito. E amo i delay, però analogici. Di lui e di lei. Analogici. Spieghi un momento ai nostri ascoltatori i delay analogici. Cosa sono? Sono degli effetti che ripetono le note. Così però, ti riposi un momento, Veronica. Finché le ragazze si annoiano no, di queste cose. No, perché è bello. No, ripetono le note. Essendo analogici significa che le ripetono in maniera, come si può dire, un po' casuale, non sono perfettamente misurati sul tempo come invece i delay digitali. Ho capito. E ritornando ai Dead Can Dance, loro avevano un'etichetta famosa. Un'etichetta che aveva un certo modo di gestire le cose, un certo sound, sì, da fuori di praticamente. Ha prodotto tutti i personaggi. Esattamente, personaggi sempre su quel genere là, no, tutti negativo. Fuori. No, fuori, perché no? Fuori, con dei bei suoni, dei suoni molto particolari. Ne parlavo un poco tempo fa. Fuori di un'etichetta famosissima in Inghilterra, una vera etichetta indipendente in tutti i sensi, fuori di. E i Dead Can Dance erano uno dei protagonisti dell'etichetta dell'epoca. Adesso non so se esiste ancora fuori di, mi pare di sì. però chiaramente i tempi sono cambiati. E questa musica vostra, non dico che appartiene all'etichetta fuori di quel genere là, però si avvicina a qualche tematica, a qualche momento, secondo me. Non so se siete d'accordo ma con la mia interpretazione. Lo studio in cui abbiamo registrato il disco si chiama The Cave, ecco. La cava, è sotto, diciamo, scavato nella pietra lavica dell'Etna. Quindi un'ottima acustica. Sì, un ottimo, no, beh, quella sì, è eccezionale, sì. È un piacere suonare là dentro. E ovviamente comunque dà una sensazione un po' scura, un po' dark. Sì, ma è una cosa positiva anche questo tuo effettare, questo tuo colerare, questo tuo portare determinati schemi anche stasera, volutamente manovrare nel senso positivo, cioè portare avanti col violino e la voce di Veronica, dà un senso alle cose, secondo me. Grazie, lo prendo come un complimento. Io l'ho sentito così, ripeto, il pezzo non l'avevo mai ascoltato prima, quindi mi ha dato questa impressione. Ora avevamo anche la chitarra acustica in macchina. Però e perché detto, non l'hai portata? Abbiamo detto no. Massa robe, no? Portiamo questo. E là, l'abbiamo lasciato là. Al freddo, al gelo. Pora chitarra. Non è tanto caldo, non è tanto freddo oggi, però insomma. No, è vero, sì. Oggi c'è stato un sole bellissimo, la primavera sta arrivando e tutte le persone sono felici. Sì. Ecco, e arriva anche la scrittura con la primavera, perché bisogna stare attenti. Esatto. Si scrive a manetta? Sì. Io solitamente c'ho una fioritura. Quindi ci sono dei pezzi nuovi già pronti praticamente. Beh, noi comunque, lui non smette mai di scrivere, questo. È giusto che sia così. Cioè, chiaramente si fa a periodi, però comunque avremo già tutto un disco nuovo. E siamo proprio col fuoco sotto i piedi per fare un altro in realtà, però chiaramente resistiamo perché ci teniamo molto che chiaramente il prodotto fatto a Catania abbia una sua collocazione discografica, dopodiché penseremo, ma noi in sala prove siamo già avanti di un bel po'. Quindi se c'è qualche discografica interessata a lavorare seriamente, sappia a che lavorare, siamo prolifici. Noi ci siamo. Ricordiamo il vostro sito, visto che sì, non l'abbiamo mai ricordato. Allora, al momento c'è solo il myspace.com/maryposh, chiaramente Twitter. Facebook. Però intendo dire il sito vero e proprio che c'era, al momento è fermo, ma troverà spazio a breve, insomma, e che sarebbe maryposh.it e anche com. Ecco, al momento chi vuole sapere delle cose su di noi va su myspace/maryposh oppure chiaramente si trova su Facebook e Twitter. Benissimo. Sono quindi importanti questi sistemi, secondo sì, voi? Sì, diretti, molto diretti. Assolutamente. MySpace aiuta con i musicisti, sì, principalmente. E con gli addetti ai lavori, e in con alcuni casi, lavori, con le agenzie. Con... Abbiamo avuto degli interessanti contatti. Con voi è arrivato... Sì, grazie attraverso... ad Alberto, grazie Alberto che vi ha contattato. Certo, esattamente. Attraverso Facebook, esattamente, attraverso Facebook, sì. È stato un contatto veloce, voi avete risposto con molto piacere subito e noi subito vi abbiamo bisogno, invitato. Se te la tiri dove vai? Lo so, ma c'è chi se la tira anche. Abbiamo imparato che tirarsi può capitare. Non serve. No. Non serve, secondo me può capitare, però chiaramente ognuno pensa come vuole. No, infatti, può certo. Però non importa, l'importante è suonare, secondo me. Assolutamente. Con umiltà e con il piacere di farlo, perché poi si sente se tu stai facendo una cosa costruita. Certo, sono d'accordo con te. Sente subito. Suonare è la roba più importante. Poi no, dischi... non farlo, se... lascia perdere. I dischi si vendono, non si... Stai a casa. I dischi adesso non si vendono più o si vendono poco, però nei concerti la gente va a sentire i concerti ancora. Ai concerti la gente tira fuori il portafoglio e compra. Quindi io mi chiedo dove sia l'inghippo, no? Cioè la gente non è il disco essere in crisi, chiaramente, non è la musica essere in crisi, ma il meccanismo che ci sta dietro, quindi... Vabbè, dovremmo stare tipo 2 ore solo su questo argomento. È un meccanismo qua un po' contorto, questo però, è vero, però esiste. Purtroppo c'è niente da fare. 23:44, abbiamo circa un quarto d'ora. Abbiamo ancora io quanti pezzi da sentire? Ma guarda, con la mia salute direi che... Veronica non sta molto bene con la voce, mi pare. Però io... Però io vorrei che il pubblico ascoltasse un pezzo, per quanto possibile, che si chiama Angelo Nero, che è un pezzo che attraversa il tempo, perché viene dall'inizio proprio di Maryposh, che hanno cantato in un sacco di... un sacco di cantanti. Nel frattempo la violinista si è attorcigliata con la borsa. È perfetto. Ma direi che è tutto normale. Tutto dal vivo, si vede tutto dal vivo con le telecamere. Visto la borsa attorcigliata. No, insomma, ci tenevo. Perdonatemi se non viene perfettamente, ma che è un modo in più per venire a sentirci dal vivo. Certamente. Per sentire come canto veramente. Okay. Rock and roll. Perfetto. Rock Wave. L'onda del rock. Sale di più. Quest'ansia che mi porta su. Chiudendo il cielo in gabbia, rimango lì a pensare se è un albero il mio grido e non lo puoi tagliare. Di nuovo ancora chiedo, lasciatemi un po' stare. Ho voglia di star zitta, ho voglia di volare. Non senti le mani che ti ama. Del rock, mentre il pezzo andava vostro, mi è venuto in mente Papa John Creech, che era un violinista di una certa età, però che suonava con i Jefferson Airplane molti anni fa. Bel pezzo, molto punk secondo me questo pezzo. Punk. Decisamente punk. Molto violento nel senso positivo del termine. Quindi l'avete fatto acustico, però elettrico sarebbe decisamente spacca. Una scorribanda di cose, di potenza, di volume. È da pogo. Sì. Cioè, cosa vuol dire da pogo? È da pogo, la gente deve pogare con un pezzo così. Ho capito. Si può ascoltare si balla, questo su internet. Sì, questo c'è. Su MySpace. C'è anche un altro brano bellissimo che si può ascoltare su internet, che è Giunco. che stasera Giunco. Purtroppo non possiamo fare perché non ce la faccio, però Giunco, che è un brano che è stato prodotto per Primo e di cui abbiamo fatto un videoclip autoprodotto, prodotto insieme a Videolana Production, e che salutiamo e noi, ecco, con l'immagine siamo molto, molto attivi, ci piace portare avanti questa cosa, e ci sono già due videoclip nostri in internet. E non è una cosa secondaria, ma per noi è principale tanto quanto la musica, quindi vanno insieme le cose. Dico, parlava dell'immagine, ma non è un atto narcisistico come qualcuno. No, infatti, tanto... immagine intesa come espressione di una parte della artistica, musica, sempre. Una parte artistica che è importante. Adesso è anche forse più importante per degli aspetti, però è proprio una cosa che ci viene anche in questo caso spontanea. Cioè, ricerchiamo la produzione anche dal punto di vista del videoclip. Senza aspettare che qualcuno faccia per noi le cose. Le facciamo noi, nel senso, è quello il discorso. Non è che e qualcuno ha tirato fuori i soldi perché i Mary Posh facessero. No, noi ci squattriniamo proprio Posh con tanta felicità. Si fanno sulle maniche e cercano. Fate tutte voi praticamente. Sì. Vi autofinanziate. Sì, no, c'è una vena anche di. Ci appoggiamo di passione, a persone. Di fotografia, di cose all'interno del gruppo. Quindi. E, ad esempio. Ormai è consolidata la collaborazione con Emanuele Zantedeschi, che è il titolare di appunto Videolana Production, con il quale stiamo crescendo, nel senso c'è la voglia di fare assieme e anche da questo punto di vista. Ricordiamo che ci sono anche delle persone meravigliose che ci fanno sempre delle belle foto. Assolutamente. Quindi avete Claudio Castelletto. Avete il vostro supporto. Sì, certo. Sì. Cioè, sono tutte cose è giusto che sia. È importante, sono importanti. E poi escono dei bei prodotti. Cioè, certo. Comunque sono importanti. È piacevole avere persone del genere vicino. Ci vuole sempre un collegamento con altra gente, perché da soli è un po' difficile, secondo me. Sì. Cioè, e forse è ancora più bello avere delle persone che vengono a farlo perché gli piace, non perché magari sono pagati o per altre cose. Certo, oddio. Allora, ricordiamo, visto che ci siamo, ricordiamo, Diego, tutta la formazione, visto che ci siamo. Beh, allora, voce e Roz piano. Che piano suona, Veronica? Oddio, pianoforte acustico e anche il Roz nel disco. Sì. Ottimo. In base alle situazioni dei brani, voce Veronica Marchi, al violino elettrico ed acustico Laura Masotto, alla batteria Bruce Turri, al basso Cori, polistrumentista. Sì. Ma c'è scritto solo basso, quindi sei molto più del basso. Sì. E Daniele Campolongo. E poi la chitarra. E poi ci sono io, Diego, alla chitarra. Diego Spezia, chitarra e autore dei brani, come dicevamo prima. Sì, l'autore di tutti i pezzi, praticamente. Incubo dei Mary Posh. L'incubo dei sì. Perché ormai... incubo? Per qual motivo incubo? Dovresti venire in sala prova una volta. E come si comporta lui in sala prova? Ma dipende dalle mestruazioni che possono colpirlo all'improvviso. Ho capito. No, e è qui... che è molto esigente e fa bene. No. Molto esigente. Mi ricordo lei, la prima volta che è venuta in sala prova, è Laura, e dopo mi ha detto... Ma oddio, questo chi è? Dove siamo? Ma siete matti. Ma voi siete matti, ma cosa state facendo? E in realtà poi ha capito cos'era. Cioè, e prima abbiamo usato il termine follia, no? Sì. Ma è una follia artistica che è fatta di tanti ingredienti diversi. Da fuori può essere incomprensibile, no? Come energia. Ma per noi è vitale. Cioè, deve essere così, altrimenti non potrebbe sopravvivere. Altrimenti, sì. Sono tutte cose messe comunque, insieme. Cioè, c'è da dire anche che ci evolviamo come una famiglia, cresciamo, sì, cambiano anche. È difficile stare insieme, ma anche facile nel momento in cui trovi una, poi una strada nella fatica. Grazie, Laura. Sì. Beh, io e Laura suoniamo anche assieme in un altro progetto un po' più pazzo. Ancora come più, si chiama? Questo progetto Psichedelic Open. Ah, in tutti i sensi. Quindi psichedelico. Violino e chitarra. Ah, bello, violino e chitarra. Mm-hmm. Andate oltre. E qui giochiamo sulle immagini, su tante cose, sì. Benissimo. Visto che sono 23:54 quasi, facciamo così, visto che non ce la fai più giustamente a cantare, io proporrei di far sentire un'altra volta il primo pezzo di apertura del EP. Cosa molto dici? Volentieri. Così diamo e dopo salutiamo i nostri ascoltatori. Molto volentieri. Ok. Sì, vai. Ok, grazie. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Sì, dicevo a Veronica, non so se Michele è d'accordo, ha un bel tiro sto pezzo, cosa dici? Lui dice d'accordo, lui ce ne intende di certi pezzi, Michele ha accettato, quindi è un bel bello, grazie. Decisamente. Merci. Okay. Merci beaucoup. Benissimo, 23:58 abbiamo finito la nostra cavalcata. È già finita. Due ore sono andate. Siamo pronti per la mia nonna? Sono andate queste due ore belle, positive. Molto belle. No, vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Questo è uno spazio veramente prezioso. E vabbè, per me non è la prima volta e già sapevo che sarebbe stato veramente bello. Ma si conferma un bello spazio. L'importante è che si conferma, secondo esatto, me. Esatto, importantissimo, perché comunque si conferma un'occasione per poter, dove non c'è tipo 20 minuti che devi non c'è. Questa il tempo di dire cose, una chiacchierata libera senza cose premeditate, non c'è niente di raccontarsi semplicemente come siamo senza un racconto. Grazie. E basta. Ciao, dobbiamo andare. Michele, che è il regista principe del programma, ci dice va bene, vi facciamo adesso, facciamo sta cover di... facciamo un omaggio che facciamo anche dal vivo, un omaggio a Lenny Kravitz. Grazie di tutto. Grazie. A voi. Buonanotte. Peace a voi. Vi love. Ricordo che domani abbiamo un altro appuntamento con gli Orofern. Ci saranno da Ancona, vengono da Ancona, tre ragazzi che vengono da Ancona. E avremo prima alle 9:15 una intervista con l'ex direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Gigi Vesigna, e parleremo di Sanremo, nonostante tutto. Buonanotte a tutti e grazie. Rock Wave, l'onda del rock. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees and all the seas and all degrees, through anywhere I please. I want to get away, I want to fly away. I to get away. I wanna fly away, away. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars. They could just be ours. Your spirit fly, we'll be the one just for the little fun. Oh, I want to get away. Radio. Rock Wave, l'onda del rock.